Non so se ci sono altre domande. Passiamo a qualche considerazione conclusiva su questi lavori. Allora, se non ci sono altre domande, io darei la parola al professor Grande, che appunto svolgerà queste considerazioni. Sarà una considerazione naturale, semmai sarà una promozione alle considerazioni di loro che ha organizzato e diretto così bene e con me. Io vedrei il tema da noi affrontato da un altro punto di vista. Dal punto di vista opposto rispetto a quello con cui è stato affrontato, secondo cui è stato affrontato. Il nostro compendio tratta del periodo che parte dal 200 piuttosto dal 300 e si nota nell'età moderna, e naturalmente per questo tratta piuttosto il tema della organizzazione, direi della realizzazione progressiva del territorio fino a formazione territoriale nel senso pieno, politico, statale nel senso moderno. Io, per mia competenza e mia tendenza, sarei portato a vedere le cose dal punto di vista delle origini, e per la formazione dei territori ritengo che si debba risalire perlomeno fino al XI secolo, perché è proprio alla svolta tra il XI e il secondo, nel XII secolo, che si manifestano le caratteristiche della nuova epoca, da questo punto di vista. Ma io vorrei vedere le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista del sorgere stesso, del manifestarsi, del principio di territorialità. E allora bisogna allargare lo sguardo. L'esempio del nostro amico Paolo Prodi, che ha affrontato vantaggiosamente un millennio di storia occupandosi del sacramento del potere, mi esorta a proporvi l'opportunità di considerare la nascita stesso del principio di territorialità, dopo un lungo periodo in cui questo si era perduto, e quindi di risalire a quell'epoca in cui un principio di territorialità ancora vigeva, cioè risalire dal male. Vorrei quindi un millennio dal quinto al decimo secolo, lungo il quale vorrei, è un auspicio, è un'impostazione di problemi, se volete un sogno, che fosse considerato il passaggio, che mi sembra un elemento fondamentale per il principio di territorialità, il passaggio dal concetto di inalienabilità dei beni pubblici, beni, diritti, poteri pubblici, lentamente verso la pratica della alienabilità. Schidon nell'alto medioevo. Per poi risalire lentamente la china, arrivare ad alcune affermazioni in proposito della inalienabilità dei beni pubblici e non solo del potere civile, ma anche dei beni della Chiesa, considerati come beni pubblici, formulato Ottone Terzi nel 1996 in una Costituzione emanata a Baviera, che viene ripreso, concetto che viene ripreso nella polemica della lotta dell'impero investitore dal partigiano enriciano Guido da Ferrara, e poi si arriva alla formulazione sotto l'influsso dei giuristi bolognesi del diritto romano della rivendicazione de regalibus fatta da Enrico Barbarossa. Secondo, ritengo che sia opportuno, dal suo stesso punto di vista, di considerare le vicende di pararsi delle vicende del rapporto fra diritto privato e diritto pubblico, poiché nel sistema signorile, nel momento in cui questo è un sistema opposto, dissolutore rispetto al sistema della territorialità, vengono fatte concessioni o alienazioni di beni, diritti, di poteri pubblici che si godono a titolo privatistico. Bisogna vedere quali sono questi diritti pubblici, se i diritti pubblici sono considerati da noi secondo la nostra civiltà giuridica contemporanea o se erano considerati anche secondo la concezione giuridica dell'epoca. E bisogna vedere che oggi non è più accettata senza discussione la concezione che ritiene nell'alto medioevo in atto la confusione fra diritto pubblico e diritto privato. A mio avviso esiste sempre una distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, soltanto che è diversa da quella che noi abbiamo. È diversa anche perché questa distinzione è operata da diverso punto di vista. Sembra che a un certo punto, dall'età carolingia in poi, è pubblico tutto ciò che deriva dal re attraverso ufficiali, regi, ed è privato tutto ciò che è eccettuato rispetto a questo. Prima parlavo di alienazione dei diritti pubblici perché noi sappiamo che dal primo medioevo, dal primo medioevo, dall'altissimo medioevo, poi dall'alto medioevo, dall'età carolingia si è noto questo processo di alienazione completa, definitiva, di beni, diritti e poteri pubblici, non necessariamente, anzi raramente per l'età carolingia, in forma di interrogazioni o di rivelazioni o di enfiteusi, ma di tutti donazioni compresa. E allora, da queste due prospettive che ho indicato, il passaggio dalla inalienabilità alla alienabilità, una diversa concezione dei limiti delle distinzioni tra il diritto pubblico e il diritto privato si creano la compresenza di due sistemi. Per chiamere una il sistema della territorialità e l'altra il sistema della eccettuazione. Eccettuazione, mi permetto di proporvi questa nuova terminologia che sono solito adoperare da decenni, perché intende sottolineare la compresenza di l'immunità sul piano civile e secolare e della esenzione sul piano ecclesiastico, della esenzione e dell'istituto della chiesa privata, della Haidia Kirche. Sono tutti e due l'immunità da una parte, il campo secolare, temporale, e la esenzione e la egregisi, che è un fatto piuttosto signorile, i poteri legati, ecclesiastici legati a un possesso, sono una eccettuazione rispetto all'organizzazione territoriale. E infatti ho parlato anche di esenzione e di chiesa privata perché ritengo che si debba parlare, non si possa non parlare anche delle istituzioni ecclesiastiche, cioè dal mio punto di vista del principio che regola le istituzioni ecclesiastiche, le quali sono inizialmente considerate dal punto di vista del territorio, della territorialità, e poi perdono l'impronta territoriale e sempre più diventano eccettuate attraverso la immunità, la esenzione e la chiesa privata. E a mio avviso dove possiamo cogliere meglio la crisi del concetto di territorialità romana è proprio in alcune lettere di Papa Gelasio I, quindi alla fine del V secolo, diciamo, nella quale, trattandosi del problema dell'appartenenza di chiese private che devono essere consacrate, ponendosi il problema del vescovo al quale tocca di consacrare le chiese, egli dice che non si devono più seguire i criteri del territorio da ripartizione amministrativa in territori secondo l'organizzazione civile dell'impero, che è diventata anche l'organizzazione ecclesiastica, il criterio ecclesiastica, e gli dice che la ripartizione della Chiesa non deve essere fatta più sul criterio del territorio, quindi in corrispondenza dei territori civili, perché questi criteri non corrispondono più alla realtà di fatto, ma devono essere fatti in base a un criterio personale. Cioè, il territorio è determinato, non è un primum, ma è un fatto secondario, è determinato dalla residenza di tutte quelle persone, i fedeli, che ricorrono a un determinato vescovo per gli uffici che il vescovo, solo il vescovo, può prestare loro, la commissione sacramentale, l'ufficiatura, la predicazione, eccetera. Quindi bisogna ricercare, trovandosi di fronte al problema di una cappella e ponendosi la domanda a quale vescovo appartiene, cioè domandarsi le persone di quel luogo a quale vescovo si rivolgono per gli uffici, la prestazione degli uffici vescovili, e a quel vescovo apparteranno. E questo criterio deve essere applicato per tutte quante le chiese, quindi risulterà il territorio. Il territorio è un fatto secondario. Andiamo andando avanti rapidamente per l'età longobarda, prima età franca, abbiamo una fortunata documentazione per il territorio, forse pre-romano addirittura, il territorio della Val di Nievole, non solo fra Lucca e Pistoia, ma ancora più importante il territorio fra Arezzo e Siena. e dove sono questioni di appartenenza delle chiese, delle chiedi, delle parrocchie, alla diocesi, per il fatto che in una lunga assenza dei vescovi di Siena è intervenuto anche il vescovo di Arezzo per le cappelle di Siena, e la soluzione viene trovata nel senso che ci si deve domandare a quale vescovo è intervenuto per consacrare una pieve, una cappella, un altare, a quale vescovo sono rivolti gli ufficiali della tale chiesa per ricevere l'ordinazione. Allora a tale vescovo apparterrà la chiesa e quindi risulterà eliminato il territorio della diocesi. E cioè facciamo un'altra corsa in avanti. Alla fine del secolo I, al principio del secondo, invece è instaurato un criterio diversissimo che ritorna alla priorità del territorio. Quando ci si pone la stessa domanda a quale diocesi appartiene una pieve, a quale pieve appartiene una cappella che sta diventando parrocchia, che sta acquistando il suo territorio, si dice che la risposta va trovata a quale territorio appartiene. Quindi il territorio diventa un primum. Quindi qui riaffiora il principio, l'idea dell'importanza di un territorio. C'è la sensazione di un altro criterio che viene assunto per risolvere tutti i problemi. E notiamo che è un tempo in cui comincia a risorgere il diritto romano. Si è parlato del diritto romano in relazione con lo sviluppo territoriale e si è detto giustamente che l'appello, il ricorso al diritto romano per sostenere il territorio cittadino naturalmente è del 300, non è del 200 del secondo secolo. Ma questo è vero, è anche vero che bisogna porsi la domanda se il risorgimento del diritto romano non acquista fin dal principio del secolo secondo, decimo secondo, nel corso del secolo secondo, decimo terzo, un'importanza per la chiarificazione di questo concetto, per l'affermazione di questo principio, a prescindere se sia territorio cittadino, sia territorio altri territori. Intanto mi pare di aver segnalato che esiste, il territorio si forma dell'organizzazione ecclesiastica, parlo di organizzazione non temporale, organizzazione di cura d'anime, strutture istituzionali per esercizio della cura d'anime. È cosa ben diversa, perché per altri punti di vista della Chiesa è parlata costantemente. Per l'Italia meridionale se ne è parlato, ma è un altro discorso che parlo, non voglio ricordarmi. D'altra parte c'è un altro settore in cui possiamo cogliere il passaggio dal criterio ormai non più territoriale a un nuovo concetto di territorio, e nella signoria. La signoria, si parla di signorie. Le signorie come? Le signorie sono un'eccettuazione rispetto alle circoscrizioni tradizionali province. In Italia ci sono molte signorie eccettuative di questo tipo, sono esse che corrodono dall'interno il territorio di potere, su cui si esercita il potere, ma è dalle signorie stesse che riparte la ricostruzione del territorio, su un territorio di potere. E in Germania la crisi di queste questioni grandi, di questioni pubbliche, che si chiamano carolingi ottaviani, noi italiani e francesi chiamiamo questioni carolingi ottaviani, e durano più a lungo, mentre la crisi in Francia e in Italia comincia alla fine del X secolo e altrove si va oltre. Abbiamo stamattina stesso sentito la crisi di certi Ducati che si riducono, e qui c'è delle differenze fortissime fra la tipologia italiana del Regno d'Italia, diciamo, e la tipologia del Regno di Germania, che nonostante le differenze, nonostante le speciali differenze in modo particolare della parte nord-orientale, dove tutto si costruisce su nuovo, cominciare dall'insegnamento, rappresenta una certa fisionomia, cioè parte fisionomia che manca in Italia, o che perlomeno è in ritardo rispetto all'Italia. Quando parlo di Regno di Germania, parlo anche del territorio dell'Alpe orientale che è stato trattato per Lausanne. Per questo ecco, è Regno di Germania a tutti gli effetti, come tipologia. Quindi avviene un fatto interessante, ma che succede spesso nella storia, che una struttura di una larga zona che per certi versi è in ritardo rispetto a un'altra, all'inizio di un certo processo, poi quando questo processo si evolve molto, beh, questa struttura ritardata si trova a un certo punto più adatta per lo sviluppo di questa evoluzione e quindi si trova avvantaggiata. Faccio un esempio tanto temporaneo, quando dopo la guerra si parlava di una trasformazione industriale del territorio agrario in Italia, miei amici di tecniche agrarie eccetera, beh, dicevano è molto più facile organizzare delle grandi aziende agrarie industrializzate di tipo moderno nel tavoliere delle Puglie che non nella Toscana, che ha avuto l'evoluzione dei poteri delle zanie eccetera. Ecco, si capite, quindi è una cosa curiosa di cui bisogna sempre tener conto. Ebbene, la trasformazione all'interno della signoria è importante perché la signoria è un fatto eccettuativo. A un certo punto avviene la trasformazione tra signoria fondiaria e signoria territoriale rurale. Sempre. La signoria fondiaria è esattamente legata al possesso. I poteri signorili sono legati al possesso, anche quando derivano dall'immunità, perché l'immunità è legata al possesso. L'immunità riguarda tutti i terreni, tutte le singole pezzi di terra che appartengono al signore immunista, dovunque questi pezzi di terra si trovano. Se alcune terre vengono vendute, escono dall'immunità, se alcune terre vengono acquisite, rientrano dall'immunità. È fondamentale questo criterio, questo principio, il punto su cui insisto. La signoria territoriale invece è una signoria che può essere legata al centro, a un castello, ma prima che essere legato al castello è legato alla cultis monocultivis in Italia, come risultato anche dal mio dibattito con Camposano l'altro ieri, ma si estende su un territorio, per quanto piccolo, e su tutto il territorio, anche sulle terre che non appartengono a nessun titolo al Signore, ma sono proprietà arboriale, sono terre di altre persone. Qui c'è un salto qualitativo che è molto importante e non avviene nelle città, nelle campagne, e non avviene alla fine del XIX secolo, quando si comincia a parlare di comuni, ma comincia ad avvenire alla fine del XIX secolo. E poi questo si dilata. Abbiamo un fenomeno in Toscana molto interessante, anzi non è già altrove, che la dimensione signorizia della signoria territoriale è molto piccola, diventa piccola. E allora si ha l'unione di due, tre, quattro signorie territoriali mediante la formazione di un consorzio familiare fra le signorie che le famiglie che hanno rispettivamente quelle signorie. Si ha nel secolo XII un interessante processo che poi viene recepito da Federico Barbarossa della creazione di territori. Nella storia d'Italia già stato segnalato come Rosano e da qualche altro l'importanza del momento della lotta per le investiture della persona di Enrico IV, non solo dell'Italia nord-orientale, cioè del Regno di Germania, per la creazione di nuove circoscrizioni civili a sostegno della parte imperiale, ma anche del Regno italico, questo per la contrapposizione. Il Principato di Canossa, i normativi di Canossa specialmente, e poi c'è quello dei degli sensi che si forma in questo periodo, e poi c'è quello dello scale meridionale, dello brattesi, che si comincia a formare in questo periodo, ci sono diversi. L'Italia non è fatta di città, ci sono alcune zone ampiamente prive di città e non per questo completamente in preda al sistema signorile, se non un sistema signorile che viene organizzando i suoi piccoli territori. Parlo del territorio di Savignano, il territorio del, che quelli che conoscono meglio, i territori del Val di Nievole, eccetera. E poi molte volte il Barbarossa assume su di sé, ponendoci un funzionario, un ufficiale, e poi vengono dato via il Barbarossa, vengono ripresi o da un vescovado o da un comune e inseriti, inglobati nel proprio territorio. Quindi esiste il principio di territorialità, si afferma nelle istituzioni di cura d'anime della Chiesa, nelle istituzioni signorili, e io non ne direi importanza ai tentativi di Federico Barbarossa di costruire dei territori, per esempio delle contee, costituite da numerosi vescovati. Avviene un fenomeno strano che si somiglia a quello delle società per azione delle industrie oggi. Chi possiede la maggioranza assoluta o anche la maggioranza relativa delle azioni ha il comando dell'intera impresa. E così in certe zone, certi territori ben definiti, chi possiede la maggior parte dei piccoli territori, delle signorie territoriali, a un certo punto fa un salto di qualità e possiede il controllo dell'intero territorio. Poi, e perciò io lo spiegavo, che fossero studiati i rapporti di Enrico IV e le campagne di Federico Barbarossa e le campagne di Enrico II e le campagne, e non sempre il rapporto di questo grande con le città. Concludendo, postando il punto di vista dal territorio che si comincia a organizzare e si sviluppa fino a degli esiti molto importanti, ha il criterio della formazione del concetto, dell'idea stessa, del principio di territorialità, dal territorio al principio di territorialità, io credo che delle ricerche fruttuose potrebbero essere sviluppate nei secoli precedenti a quelli dei quali siamo occupati oggi, con utilità anche per ciò che è avvenuto nel 2, 3 e 4. Italienische Territorien gelernt haben, sondern wir haben hier auch Erkenntnisse über die eigene deutsche Geschichte der Territorien erhalten. Das war eigentlich das für mich vielleicht Verblüffendste. Ich möchte zur Geschichte der Territorien in Deutschland vielleicht nur noch einen Gesichtspunkt auf ganz allgemeine Art hinzufügen, der bisher, glaube ich, wenig zur Sprache kam. Das ist die Mobilisierung der Herrschaftsrechte im 13. Jahrhundert. Man hat auch von einer Kommerzialisierung gesprochen, also man kann Gerichte verkaufen, übertragen, verpfänden. Die vielen Pfandgeschäfte sind ein deutlicher Beweis dafür. Und diese Mobilität der Rechte, also nicht der Person, sondern die Mobilisierung der Rechte, das ist eine Voraussetzung dafür gewesen, dass es zu dieser zweiten Schicht der Territorienbildung kam, die ganz am Anfang der Tagung Herr Jansen angesprochen hatte. Das war ein sehr gutes Stichwort, dass also sehr viele weltliche Herren nach den alten Fürstentümern noch einmal Territorien aufbauen konnten. Ohne diese Mobilisierung der Herrschaftsrechte wäre das nicht möglich gewesen. Aber in Deutschland ist im Gegensatz zu Italien immer eine Beziehung zum Reich, zu Kaiser und Reich gesucht worden. Und diese avancierten neuen Territorialherren, die Grafen, die Grafen Ansbach, Bayreuth, Lehmann, Württemberg, Mecklenburg, Hessen. Diese Grafen haben später angestrebt, dass sie in den Fürstenstand erhoben werden. Und alle diese genannten werden später Prinzipes. Die kleineren haben das nicht erreicht. Sie blieben Grafen. Aber die bedeutenderen wurden auch Fürsten. Das heißt, diese Territorialherren haben sich bemüht, in eine Stellung zu kommen, möglichst nahe am Kaiser, in eine ganz nahe Beziehung zu kommen. Das war offenbar für ihre politische Stellung, für ihr Prestige, für ihre Machtentfaltung und so weiter von großer Bedeutung. Und da ist ein großer Unterschied zu Italien, wo diese Staatsbildung einen eigenen autonomen Weg gehen. Dies vielleicht als ein letzter inhaltlicher Gesichtspunkt, der mir im Laufe dieser Tagung noch eingefallen ist und den ich doch für wichtig halte. Ansonsten gibt es auch Parallelen natürlich zwischen der deutschen und italienischen Entwicklung. Und die Parallele schlechthin ist die große Rolle des Adels. Das Prinzip des Kaisertums verliert an Bedeutung, als Quelle eines Rechts verliert an Bedeutung und mächtige Adelsgeschlechter steigen auf. Jedenfalls das ist in Deutschland und in Italien, glaube ich, ganz genauso. Und sie bilden dann einen ersten Schritt zur Herausbildung moderner Staatlichkeit mit Überordnung und Doktorat. Ich möchte es dabei bewenden lassen bei diesen wenigen Bemerkungen und zum Abschluss noch einmal ganz herzlich diesem Hause, Ihnen, Prodi, Herr Chetolini, allen, die hier diese Tagung organisiert haben, ganz herzlich danken. Ich glaube, dies war doch eine sehr ertragreiche Zusammenkunft, eine ertragreiche Begegnung. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf ein gemeinsames Buch, das wir daraus machen können. Es ist dieses Institut eine sehr wichtige Institution und wir können Sie nur bewundern und Sie beglückwünschen, dass Sie das haben, und wir wollen das weiter pflegen. Also herzlichen Dank noch einmal für diese ganze auch große Gastfreundschaft hier in Trier. Ma anch'io mi permetterei molto brevemente di né conclusioni né altro, ma cercare di provare a ordinare alcune delle cose che mi è capitato di notare in questi giorni. E tre o quattro punti soltanto, sarà una cosa molto piana e molto breve. E secondo me, se non ho inteso male il lavoro, lo svolgimento dei lavori in questi giorni, mi sembra che su un punto direi sia arrivata a una certa chiarezza e con una certa coincidenza fra situazione italiana e situazione tedesca. Cioè una svolta, mi pare, tra XII e XIII secolo, fra un sistema, che naturalmente sono pareri miei, forse non esatti, di organizzazione signorile, come mi pare quello a cui faceva riferimento il professor Violante, cioè un sistema generalizzato, non di signori fondiari, ma di signorie territoriali, che io mi figuro come caratterizzante dell'ordinamento territoriale europeo prima di questa fase, XII-XII secolo, ecco, mi sembra un mutamento di questo sistema, non perché scompare del tutto, ma perché compaiono nuovi nuclei di coordinamento, che sono le città in certe zone d'Italia, i principati in altre zone e altre forme. Cioè, mi è sembrato di notare, quando si è sentito parlare dell'Italia padana, così come di tanti principati tedeschi, come dire, la presa d'atto di un venir meno di fronte a chi studi il problema dell'organizzazione del territorio, del venir meno come elemento pregnante o comunque caratterizzante dell'elemento signoria. No, signoria non come signorie che pure continuano ad esistere, ma come sistema generalizzato di organizzazione territoriale. Ecco, non so se questo è vero, è un'ipotesi, ma è una cosa su cui mi pare alcune delle relazioni. Varie relazioni hanno portato degli inviti. Un altro elemento che mi sembra sia emerso parallelo a questo è appunto, come dicevo, la comparsa di questi organismi di coordinamento nuovi, no? Che sono, abbiamo visto, estremamente diversi, no? I tanti esempi, il Principato Sabaudo, i vari principati tedeschi, forme di organizzazione in area meridionale, mi viene a ripetere le città in area padana. Ecco, non credo che sia soltanto una forma di esasperato umanocentrismo, è la constatazione di fatto che fra 200 e 300 parlare di organizzazione del territorio non ci permette di prescindere da queste nuove cose che prima non c'erano in questa forma. Ecco, su secondo punto che vorrei dire, o forse già il terzo. Sui meccanismi poi di organizzazione territoriale di questi nuovi organismi, le città, i principali, chiamiamoli, mettiamoli come vogliamo, secondo me sono emersi degli elementi interessanti dalle varie relazioni. Ecco, per me nuovi, appunto, originali, questo non vuol dire, ma mi sembra importante. E su un aspetto forse si è messo l'accento. In particolare, direi sugli elementi di modernità, di costruzione statale, cioè per esempio in molte relazioni di colleghi tedeschi è emerso proprio questo passaggio dalla Grundherrschaft alla Landesherrschaft e la proposizione di quei mezzi e strumenti di Staatsbildung, no? Di costruzione statale. Ecco. E anche parlando dell'Italia è capitato di vedere la politica la politica fiscale, la politica finanziaria, tutte appunto riferite queste politiche ai nuovi centri di organizzazione territoriale e quindi la costruzione di questi elementi. Ecco, quello che secondo me varrebbe la pena di approfondire, o mi è rimasto il dubbio che possa essere un elemento interessante, è l'altra faccia della medaglia, cioè quello che resta di non superato e di non statalizzato, di non statualizzato, diciamo, cioè di non portato a livelli di modernità in questo processo che è lungo sia nella storia degli stati cittadini sia nella storia dei principati territoriali tedeschi, come vedevamo dalla cartina di quella di quell'AMT stamattina, no? Cioè questa, ancora a metà del Cinquecento, questo frazionamento di diritti territoriali, giurisdizionali, signorili, diritti sui territori, eccetera. Ecco, forse se si riuscisse a combinare meglio, ecco, da un lato quegli elementi, quel modello, diciamo, di costruzione di Stato moderno, di organizzazione territoriale più moderna, a cui molto spesso viene inevitabile riferirsi nel fare questi discorsi, da un lato, e dall'altro lato la presa d'atto della permanenza di questi elementi, no? Per esempio, ecco, io ho sentito la mancanza di discorsi sulla signoria rurale in un periodo in cui in realtà c'è ancora il 200, il 300, il 400, no? Che è un altro tipo di signoria, che però non è scomparsa dalla scena della storia, no? Sta facendo i conti con questi nuovi centri di coordinamento territoriale. E questo forse è un settore che così varrebbe la pena, o meglio, una serie di aspetti che varrebbe la pena di tenere presente per avere in mente il quadro. Ecco, un altro aspetto che mi sembra sarebbe interessante da approfondire è questo. Lo dicevo prima, forse sbagliando, intorno al 200, 12, 13 secolo, mi sembra di cogliere questa svolta, no? Ecco, non si è riusciti a vedere, mi è sembrato, un punto terminale di questo processo, non dico cronologico, ma dal punto di vista di strutture di organizzazione territoriale, no? Nascono questi stati cittadini, nascono questi principati in area tedesca, che però durano tantissimo, insomma, molto più di quanto noi siamo riusciti a vedere in questo periodo di tempo che ci eravamo prefissati, e molto più di quanto forse noi riusciamo a capire le ragioni di questa lunga sopravvivenza. Cioè, mi veniva da pensare un po' questo, probabilmente bisogna studiare non soltanto la struttura di questi territori, cioè il fatto che esistono degli stati cittadini con queste dimensioni, dei principati con queste dimensioni, ma anche altri aspetti che forse varrebbe la pena di approfondire. Per esempio, che esiste un sistema di organizzazione fiscale che cambia, anche se i confini politici restano uguali. Esiste un sistema, per esempio, di amministrazione della giustizia che fra 200 e 400 e 500 cambia moltissimo, non si semplifica la rete di giurisdizione, nascono i grandi tribunali, eccetera. Cioè è una dinamica di istituzioni finanziarie, giurisdizionali, eccetera, ecco, che va al di là di quelli che restano i confini con l'organizzazione territoriale. Mi venivano in mente i discorsi di, per esempio, mi ricordo un dibattito con la Ruggini, lei parlava a proposito dell'età romana, se non ricordo male, di pseudomorfismo, no? Cioè di queste strutture territoriali che restano uguali, sembrano essere la stessa cosa, in realtà sono diventate una cosa diversa, insomma è rimasta la forma di una cosa, ma la sostanza si sta cambiando. Ecco, forse è più facile cogliere queste sostanze, cioè la permanenza di confini politici, che non un'evoluzione che riguarda strutture interne di governo che forse sono più significative. Attenzione, strutture interne, questo è l'ultimo punto, scusate la notizia, e forse anche strutture esterne a queste realtà territoriali di cui ci siamo occupati, no? Cioè, si è sentito parlare qui varie volte di, non so come dire, reshuffling intensificazione, no? Come rafforzamento di autorità all'interno però di questi territori. L'impressione è che questo processo 200, 300, 400 non sia solo di reshuffling intensificazione, cioè di rafforzamento di poteri all'interno di ogni singolo territorio. No, la struttura territoriale complessiva non è data dalla somma delle singole strutture territoriali, no? Esiste un processo, non so come si potrebbe definire, proviamo a dire di politische Verdichtung, no? Cioè di addensamento politico, che va al di là dei confini dei singoli territori. Cito proprio a caso alcune cose che sono saltate fuori. Per esempio il ceto della Ritterschaft, che a un certo punto diventa tutelato, no? All'interno dei Länder, o degli stati, ma non per forza solo propria o per, diciamo, una interna interfaccia che si arriva a quel livello, ma perché la presenza di un rinnovato potere imperiale consolida le strutture di questa minore unità. Allora non si può fare la storia o capire l'ordinamento politico di un singolo territorio senza dimenticare, lo ricordava il professor Birbaito un momento fa, per esempio, in questo caso la presenza di un'autorità imperiale che funge, come dire, adesso non so, da equilibrio in questo caso, ma che sicuramente ha una funzione interna agli Stati. Oppure un altro elemento che è saltato fuori, i piccoli principati ecclesiastici in Germania, alla fine del Medioevo, sono tutelati, no? Appunto da questo nuovo sistema di garanzie che, al di là della loro forza particolare, o al di là delle, diciamo, delle strutture di Staatlichkeit che abbiano potuto elaborare a se stessi, comunque li garantisce, cioè una forza esterna, un po' ecclesiastica, un po' politica, che però è un elemento chiave di una nuova organizzazione territoriale che troviamo nel 400 e non trovavamo nel 200. Quindi in sostanza, una, come dire, questi problemi, come del resto è risultato benissimo, sono assai più complessi di quanto non si possono risolvere dall'esame specifico di singoli territori. E da questo punto di vista forse così, non dico che questo incontro sia stato prematuro, ma in effetti sicuramente c'è molta strada da fare, anche forse per mettere a fuoco le categorie, le vie di ricerca per cogliere lo svolgimento di questi progetti. Al quale tuttavia qualche elemento appunto sia emerso, e mi auguro che alcuni dei risultati che portare questo video da questo volume, che dovrà uscire anche da questo incontro, possa costituire appunto un buon punto di partenza. Ecco, io ricordo ai relatori, me l'ha ricordato il professor Roma, che in gennaio vanno consegnate le relazioni per comodità qui a Trento, per favore, poi il professor Prodi, istituto di Trento, le distribuirà per una lettura, eccetera. Vorrei ringraziare i traduttori che abbiamo sfruttato in modo indecoroso e che sono stati e ancora una volta anch'io alla cortese, simpaticissima ospitalità, oltre che efficientissima ospitalità dell'istituto, che ci ha permesso di tenere anche quest'anno in condizioni così di grande piacevolezza, insomma, umane, di rapporti, oltre che di lavoro scientifico, questa settimana. Quindi non so se Paolo vuole dire qualcosa. Allora, grazie a tutti.